24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Domani annuncerà l'abolizione delle cabine telefoniche. Perché abbiamo ancora le cabine telefoniche? A che servono nel mondo dei telefonini? Cioè lui fa un annuncio al giorno e si archivia quello del giorno precedente. Lui è Matteo Renzi e secondo la versione di Gasparri, abbiamo iniziato così con Gasparri. Qua sposto i microfoni perché aspetta che me lo sistemo ancora un po'. Eccolo qua, questo è il rumore del microfono da sistemare. Allora, cari italiani, è in corso la 49esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ve ne siete accorti? È in corso la 49esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ve ne siete accorti? È il giorno in cui c'è l'udienza anche per decidere che sarà il destino di Silvio Berlusconi. Mettetevi tranquilli, oggi non decideranno nulla, la decisione entro 5 giorni, quindi presumibilmente lunedì prossimo, martedì, anche perché l'udienza è alle 17. Devono decidere se arresti domiciliari o più presumibilmente servizi sociali. E qui ve lo dico già oggi sui giornali, c'è una genialata di Berlusconi. Il ragazzo, l'ho scritto su Twitter, è un genio. Ve lo dico tra poco cosa ha escogitato secondo i giornali. Intanto saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Apriamo il Parlamento che anche oggi vi fa compagnia, il caffè offerto, ovviamente. Il caffè volentieri a tutti quanti. Offerto da Nicole Minetti, come sempre. Allora, accorrete al Parlamento, abbiamo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Eccoci qua, come va? Buongiorno Rienzi. Sa che oggi Berlusconi ha trovato una genialata. Mamma, questa è geniale. Quella degli anziani. Ma in modo geniale. Intanto mi faccia salutare Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Eccoci Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, la genialata è questa. Io non ci volevo credere quando il Corriere della Sera l'ha messo in una riga nell'articolo. Poi il Secolo XIX ci fa addirittura l'apertura. Insomma. Allora, Berlusconi ha detto: devo andare a fare l'affidamento ai servizi sociali in un centro per anziani. Ho una cascina, lo costruisco io. Costruisco io, quindi propongo di farlo in un centro per anziani non ancora ultimato, ma qualche mese lo costruisco e vado lì a fare il motivatore di anziani. Dai, forza. È una cosa che io ho detto tante volte, ma non per una cascina. Vi ricordate quando in questa trasmissione raccontai che in Bielorussia uno che aveva fatto lo stesso tipo di evasione? Come no, me lo ricordo. Era stato condannato a costruire uno stadio, sì, mi ricordo, per i cittadini. Allora questo è troppo comodo fare la cascina. Anche se oddio, è vero che Rienzi voleva fargli costruire uno stadio, che ne so, l'Olimpico, sì, magari. Bravo, una cosa che i cittadini vedono la pena pagata. Che mi significa stare 6 mesi in una cascina? Ho capito, ma tutti fanno così, tutti gli affidamenti ai servizi sociali, tutti sono così, lo fanno migliaia di persone. A me mi sembra una grande ipocrisia, mi sembra veramente, guarda, io non sono berlusconiano, però devo dire che questa cosa che per evitare che gli italiani lo votino, non si capisce, sì. Vediamo se lo votano, vediamo sui contenuti. Comunque ha fatto un'altra genialata, ma ve la dico tra poco. Maurizio, che dici tu? Ha proposto questa cosa Berlusconi? No, non credo che l'abbia proposta, perché è impossibile, è tecnicamente impossibile, nel senso che i centri devono essere preventivamente concordati, convenzionati con il tribunale. Infatti, chiunque può proporsi per fare fare una cosa. Ma sai che Berlusconi, cioè, è quello che vuole un po', come dire, faccio io. Non credo francamente che sia una proposta. No, ma infatti il fatto quotidiano dice che ci sono due sole strutture convenzionate con il tribunale e provincia e sono allentate sul Seveso, quindi forse finirà lì lì obiettivamente c'è un problema tecnico. A me se non concesso che poi alla fine gli venga concesso l'affidamento ai servizi sociali, ma vedremo, come dicevi tu giustamente all'inizio della prossima settimana. Il fatto che Berlusconi vada in un posto tipo appunto una casa per anziani, come si dice, o chissà che cos'altro, rappresenterà sicuramente un problema per quel posto, perché è chiaro, immagina la sicurezza, i giornalisti, pensa agli anziani come saranno tutti tranquilli, tutti a fare interviste, tutti. Può essere pure un vantaggio però, perché come è stato il naufragio della Concordia, no? Quando finché c'è la nave gli alberghi sono tutti pieni, porterà un po' di vantaggio a questa economia del luogo. Vabbè, no? Dai, adesso l'indotto di lentate sul Seveso, non lo so. No, ma la vera genialata è questa invece, scrive il Corriere, la seconda genialata. Ha prodotto una memoria difensiva Berlusconi, nella quale è vero che non ci vuole ravvedimento, non ci vuole, però a scanso di equivoci hanno prodotto una memoria difensiva per l'udienza di oggi, scrive il Corriere, nella quale si dice i miei attacchi negli anni ai magistrati, ma l'ho fatto solo perché insomma dovevo prendere voti, in pratica, cioè non erano attacchi veri, erano motivazioni politiche, ecco, per cercare di creare anche un po' di consenso popolare. E quindi questa, ecco, questo Maurizio sarebbe una rivelazione dopo anni abbastanza. Comunque non mi pare francamente. È un modo anche perché Berlusconi, come giustamente dicevi tu, non c'è alcun bisogno che lui si ravveda, e sarebbe un'ipocrisia veramente abominevole. Non lo so, per cuotersi il petto per quello che ha fatto. No, è cioè, la pena è quella, pena, stop. Non è che ci sia. Non lo so, lo scrive il Corriere. Vedremo che paiono tutte cose abbastanza stupide. Vabbè. Rienzi, chi c'è? No, volevo fare una battuta. C'è un modo per Berlusconi di presentarsi anche alle europee. Vediamo se qualcuno lo indovina. No, vabbè, adesso, vabbè. Basta che chiunque il capolista sia autorizzato da lui dica detto Berlusconi, cioè Tizio Caio detto Berlusconi, che finisce sulle liste. Fantastico, cioè, si potrebbe essere detto Berlusconi. Non la vendo questa. No, la suggeriamo, ma secondo me l'hanno già prevista. Detto, Giorgio Rossi, detto Berlusconi, esatto. Con scritto con carattere doppio, magari. Ma se vuole dare una prova che gli italiani lo votano, vabbè, io vorrei sapere che ne pensate di questo Matteo Renzi che corre, scalpita, va, pare che, ecco, per esempio ha messo 5 donne capolista, volevamo sentirlo ieri al Vinita, le 5 donne capolista alle europee. Il Partito Democratico avrà per le candidature alle europee 5 donne alla guida delle 5 circoscrizioni. Questo credo che sia la migliore risposta a chi in questi mesi, queste settimane, ha accusato proprio me, per di più, di una scarsa sensibilità. È sempre così, vuole stupire, rompere gli equilibri, Renzi. Come io ho scritto sull'Huffington Post, è la tecnica di Bergoglio, cioè lui, mentre Bergoglio però se lo può permettere perché è Papa. Deve creare un consenso nelle anime e quindi non ha da promettere cose che non mantiene. Il problema è dell'abuso della credulità popolare, non tanto sulle donne quanto su tutte le promesse che sta facendo, che non sappiamo come farà a mantenere, perché di soldi pochi ce ne sono, sì. Va bene però che sta andando sulla strada giusta, voglio vedere se elimina i 500 enti inutili che portano miliardi di soldi buttati, vediamo però, non ci credo, sono un po' chiacchiere. Fa come Bergoglio, quindi ci sta dicendo, caro Maurizio, che diventa il Papa. una certa area di santità sui giornali ce l'ha. Sì, un pochino effettivamente oggi c'è un articolo per esempio del Fatto Quotidiano che racconta la sua vita, come gira per la, con la camicia e scalzo per Palazzo Chigi quando non ha le riunioni, oppure è lì che ha mangiato ieri due bomboloni, ma in genere mangia pasta al sugo e roast beef, e quindi dieta molto molto rigorosa, però ha preso 3 chili, non sa come correre, quindi usa la cyclette. Ecco, c'è queste aura un po' di santità sia geografica, c'è un po', Maurizio. Sì, no, concordo tra l'altro con Rienzi, al momento sembra che gli prema soprattutto questa storia degli 80 euro da restituire. Ma obiettivamente tutto il resto è molto appeso a un chiodo, dalle privatizzazioni per le quali garantisce, e non si sa come farà a farlo, 12 miliardi entro quest'anno e 12 o 14 miliardi negli anni prossimi. Cosa vende? Dove vende? Non lo so, tra l'altro gli 80 euro oggi Repubblica scrive, c'è un rapporto della UIL, caro Rienzi, 80 euro arrivano, 40% di questi, quindi cos'è, 8 per 4, 32 euro se ne vanno per l'aumento della TASI e delle addizionali comunali, quindi mi sa che, vabbè, questo però non è che ci si può far niente, no Rienzi? No, non si può far niente, perché è chiaro che se con una mano dai e con l'altra lasci che sia preso, dovremmo essere esenti da qualsiasi tipo, cioè è chiaro che la TASI bisogna pagarla, esatto, e se la TASI aumenta. Ma bastava che chissà quel livello di reddito che deve prendere gli 80 euro fosse esentato, che ne so, dall'80% della TASI, cioè si poteva fare, sì. In realtà poi invece non si fa, perché importante è l'annuncio, importante l'immagine, importante la credulità della gente, importante è fare, appunto, andare per strada, dare la mano, andare scalzo, senza cravatta, senza scorta. Vabbè, adesso però stiamo demolendo, siete dei gufi, eccoli, siete dei gufi, eccoli qui, Carlo Rienzi, Maurizio Tortorella, due gufi. Dopo che facciamo? Esatto, come ha detto lui, due porta sfiga, insomma, ce l'ha contro i gufi, i rematori, contro i... quelli che dicono non ce la facciamo. Maurizio, ti piace un po' il gufo, di la verità, come animale, no? Il gufo è un animale bellissimo, non credo di essere un gufo, sono uno scettico blu. Uno scettico blu, cos'è uno scettico blu? Cosa vuol dire? C'era una canzone, mi pare, che parlasse dello scettico blu. Vabbè. Ma no, sono comunque un po' scettico, anche perché voglio dire, dopo averne viste tante. Giustamente. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi so che Carlo Rienzi è infuriato per questa storia, non ho capito bene, dei test di medicina, insomma, perché, però ogni anno il Codacons si arrabbia, ogni anno peraltro i test di medicina sono sempre uguali, ogni anno ci sono le polemiche, ci sono le domande che non c'entrano nulla, e anche questa è la tiritera annuale che ci ritroviamo in Italia, tra poco. 24 mattino. All'ufficio immigrazione vedo che vuole venire in Italia, perché? Nel suo paese gli ospedali non funzionano. E non ci possiamo lamentare. La scuola non funziona. E non ci possiamo lamentare. E le tasse sono troppo alte. E non ci possiamo lamentare. Ma allora perché vuole venire in Italia? Perché in Italia vi potete lamentare. Ho sentito un po' Brunetta, Renato, da piccola pasticceria. Ma io più che come Brunetta conoscevo quella là di Ricchi e Poveri. Quella sì che era una bella Brunetta. Ai pensionati d'Italia. E voglio dire, quando sarà il momento, ricordatevi che Renzi e tutta la compagnia cantante vi ha fatto pagare più tasse con l'aumento delle ritenute fiscali sugli strumenti finanziari, ma vi ha escluso dagli 80 euro. Ricordatevene. O va capitanga, ma guarda che razza de politic del menga, o che Renzi il sede ciula, oppure mi elveri più pum pum. Il DEF minaccia mille sforbiciate, e voi manager di Stato su tremate, è in pieno svolgimento la campagna per farvi terminare la cuccagna che vi permette di intascar contenti la paga uguale a 1000 dipendenti. Ciao ne, da Felice Pautasso. Grande, grande Felice Pautasso, ti devo chiamare, lo farò presto. E voglio, eccoci qua, Rienzi, vogliamo sentire prima il Brunetta del giorno? Il Brunetta del giorno non possiamo mai, non posso mai negarmi il Brunetta, Appena pubblicato valuteremo i numeri. Attualmente ci sono circa 1,5 miliardi di tasse in più, promessi gli sgravi IRPEF, non si sa ancora esattamente che fine farà l'IRAP e non si sa ancora che fine faranno gli sconti sull'energia. E non si sanno soprattutto i 4,5 miliardi di tagli. Brunetta è così. Brunetta del giorno oggi tuonava sulla questione delle cifre. Allora Rienzi, che cosa c'è? Cosa c'è che non va in questi test di medicina? Questi test sono obbligatori per potersi iscrivere a medicina. Ora 65.000 candidati hanno partecipato. Se non fosse che è un enorme business per le università, che sono soldi tanti che non vanno manco allo Stato, vanno alle università, sarebbe anche giusto. Ma se tu ti vuoi iscrivere, questo so se la gente lo sa, anche se non superi il test, come uditore alla facoltà, basta che paghi, cioè prima paghi per il test, poi non lo superi, poi ti chiedono altri 100 euro, 150 e ti fanno iscrivere lo stesso per 2 anni a fare gli esami come se niente fosse. Allora vuol dire che i posti ci sono. È la stessa cosa se te ne vai in Albania, cioè le università italiane hanno le filiali in Albania dove fanno entrare tutti e poi li fanno trasferire qui. Allora se è un problema di soldi, ma sti poveri ragazzi, ma che c'entra di fare sto test? Noi stiamo preparando un ricorso a TAR, già l'anno scorso abbiamo fatto ammettere tutti quanti. Eccola, l'altro ricorso. Ma c'è una cosa sulla quale, Maurizio, sulla quale non hanno mai fatto ricorso al Codacons, non lo so, non lo so, bisognerebbe, sarebbe un bello scoop, Maurizio Tortorella, mettetela, su questo il Codacons non ha ancora fatto ricorso al TAR. Si potrebbe fare. Sui viaggi su Marte. Sui viaggi su Marte, esatto, forse non hanno ancora fatto ricorso al TAR. Va bene, no, io devo dire, ho qui la copertina di Panorama, oggi è dedicata a una lunga storia su uno dei business del futuro, no? Il fatto di, il titolo è Felici e Longevi, ma è vero che vivremo più di 100 anni, ormai... Ma senti, sul tema ci sono delle ricerche strepitose in giro per il mondo, anche in Italia, perché il genoma, la mappatura del genoma degli uomini più longevi, delle donne più longevi in giro per il mondo, anche in Italia, è veramente un lavoro strepitoso e interessantissimo. Ma ci conviene? Questo è discutibile. Perché la qualità della vita è anche importante, no? Se guardi le fotografie, le storie dei personaggi che sono i testimonial di questa storia di copertina, sono incredibili. Ma certo, questi sì, avete preso giustamente centenario, novantenni che sono in gambissima, ecco. Strepitosi, di testa e di corpo, ovviamente. L'obiettivo è quello, certo non tenere in vita dei vegetali, l'obiettivo è esattamente quello. C'è quella famiglia sarda, per esempio, in 7 fanno più di 900 anni di età, una cosa incredibile. E anche lì stanno studiando quali siano i loro modi di vita, l'alimentazione e quant'altro, e ovviamente immagino che stiano analizzando anche i loro geni per capire quali sono i segreti di questa storia. Interessante, vivere più di 100 anni, Rienzi vivrebbe più di 100 anni. Storia. Io li vedo tutti vivere piuttosto male. Eccolo subito. Adesso dipende, alcuni bene, alcuni. È vero che si è spostato avanti l'età. Il 2% vivono bene, perché a quell'età, ma parliamoci chiaro, insomma, o se ne va il cervello. O non puoi fare più niente. Allora, se per dare lavoro ai badanti. Però la qualità della vita è migliorata. Un sessantenne di 30 anni fa non è certo un sessantenne di adesso. Questo è un altro problema. Però non mi vuoi dire che a 90 anni, 85, 90 si vive bene. Però non è che voglio fare quello che dicevo, meglio morire che vivere male. dovremmo constatare, cioè tutta questa ricerca, queste spese che si fanno per questo scopo, sì. Allora tanto vale fare la l'ibernazione, no? Iberniamo, facciamo le borse di studio, le borse di ibernazione, le mettiamo a bando, cioè, questi soldi. Comunque anche un milione di ibernati, c'è anche questo, Maurizio, cioè, stanno facendo anche questo, no. Anche Google sta investendo potentemente. Se Google investe, qualche motivo ci sarà nell'ibernazione, cioè, mette gli occhiali dentro la metropolitana per poter, invece di stare in metropolitana tranquilla, riposarti, guardare internet, Renzi dice, ma porca miseria, sono lì in metropolitana, posso stare tranquillo a leggermi un libro, devo mettermi sugli occhiali di la Google internet per stare connesso, va bene, dai, allora vi saluto, Carlo Renzi del Codacons, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, numero che trovate in edicola, felici e longevi, dai che l'età media si alza. Dai che si vive fino a 100 anni. Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti in questo istante. E allora, debosciati d'Italia! Agite, muovetevi, fate cose, datevi da fare, dai che la giornata è appena iniziata. Noi parleremo più avanti con Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD, per capire che succede di questi numeri di quello che il DEF, no? Gli 80 euro, non gli 80 euro, arriveranno, non arriveranno. Parleremo anche alle 8:15 di questa nuova emergenza sbarco di migranti, sotto traccia, ma è un gran classicone di questa stagione, il mare si placa, il tempo è più bello e cominciano gli sbarchi. E tutti gli anni a ripetere le stesse cose: l'Europa, dov'è l'Europa, il governo che fa, bisognerebbe rimandarli indietro, no? Bisognerebbe accoglierli tutti, bisognerebbe aiutarli, e di anno in anno si ripete questa situazione. Ne parleremo alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 10 aprile, intanto i titoli: c'è chi si dedica all'economia, come il Sole 24 Ore, sgravi IRPEF ai redditi fino a 24.000 euro, questo è il titolo di prima pagina, mentre per Libero gli 80 euro li vedranno solo 6 milioni su 10, questo è il titolo un po' preoccupante di Libero, mentre il Fatto Quotidiano: Matteo taglia qui, sono le proposte su e tu cosa taglieresti, 793 uomini è l'esercito di Napolitano, il Quirinale schiera un apparato di sicurezza che è quasi il doppio di quello della Casa Bianca, questa è l'accusa del Fatto Quotidiano a dire taglia qui. E poi la fecondazione con la sentenza che ha cambiato la legge 40 è il titolo praticamente per tutti gli altri quotidiani, l'apertura del Corriere della Sera è proprio questa. Svolta sulla fecondazione, per Repubblica fecondazione assistita fuori dalla coppia è una svolta storica, per La Stampa fecondazione dalla consulta via libera al donatore esterno, il Messaggero sia la fecondazione eterologa, l'Unità un bel giorno per le donne, Avvenire invece è molto critico, fecondazione torna al mercato della vita, mentre il Secolo XIX fecondazione addio divieti, Il Manifesto invece l'ovulo di Pasqua e c'è la foto di una donna incinta, mentre il Giornale ha un'apertura su Berlusconi, oggi la sentenza per l'affidamento ai servizi sociali o gli arresti domiciliari, Berlusconi innocente, le prove, così il titolo di prima pagina del Giornale. Vogliamo partire proprio da questa decisione sulla fecondazione per cercare di capire allora cosa è successo. La legge 40 vieta la fecondazione eterologa in tutti i casi in Italia, ma ieri c'è stata questa sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto della fecondazione eterologa, un termine che indica nella comune eccezione, scrive il Corriere a pagina 2, l'impiego di gameti, ovocita femminile e spermatozoo maschile, non appartenenti alla coppia, donati e in molti paesi venduti. Questa decisione è stata fatta dalla Corte Costituzionale in caso di infertilità assoluta, quindi si può ricorrere alla fecondazione eterologa in caso di infertilità assoluta. Rimane invece il divieto assoluto per i single, rimane il divieto per le coppie omosessuali, ma su Repubblica viene intervistata la coppia che ha dato il via a tutto, Caterina Pasolini, prima pagina: il nostro dolore non è stato inutile. Una coppia che dice: per noi forse è troppo tardi, peraltro abbiamo già un figlio, ma abbiamo aiutato a dare speranza e più garanzia a tutte quelle coppie che sognano un figlio. Per noi è tardi. È una coppia di Catania che racconta la propria storia, pagina 2-3, Elena parla con irruenza e passione, col marito Alessandro, libero professionista di Catania, forma una delle due coppie assistite dagli avvocati Costantini ed Amico che hanno convinto con la loro storia la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimo il divieto di fecondazione eterologa. Dedico questa vittoria alle coppie incontrate nei nostri viaggi della speranza all'estero, a quelle che si sono impegnate alla liquidazione, a chi ha chiesto prestiti, inventato scuse per ottenere un mutuo e pagarsi il sogno di un figlio. Noi ogni volta che siamo andati all'estero per cercare una gravidanza abbiamo mentito ad amici e parenti, inventando vacanze, impegni di lavoro inesistenti, consci di commettere un reato per la legge italiana, ingiusta. Ma non eravamo contro la nostra coscienza, ci sentivamo cittadini di serie B. Poi all'improvviso, dopo aver avuto mia figlia, che ora ha 6 anni, mi sono ritrovata in menopausa a 34 anni ed ecco il dramma, la solitudine. Nessuno può capire cosa si prova se non ci si è passati. Per me era anche più insopportabile, visto che una figlia ce l'avevo. Comunque è stata durissima. Racconta insomma la propria storia e su tutti i giornali c'è appunto un commento più o meno critico. Avvenire è molto critica. Per questa decisione c'è un editoriale di Assuntina Morresi, che fa parte anche della Consulta di Bioetica, spesso è nostra ospite su questi temi appunto legati all'etica. Il titolo del commento di Assuntina Morresi in Prima di Avvenire è "Il legame spezzato". Mamma e papà, scrive la professoressa Morresi, finora in Italia non c'è stato bisogno di aggettivi per spiegare chi siano i genitori di un bambino, unica eccezione l'adozione, quando c'è quel padre e quella madre non ci sono più e allora si cerca di dare ai bambini i genitori cui loro hanno diritto. Con la fecondazione eterologa invece si distingueranno i genitori legali, sociali, intenzionali, quelli che hanno cercato il figlio mediante fecondazione in vitro, da quelli genetici, biologici, naturali, coloro che hanno ceduto i propri gameti, ovociti e spermatozoi alla coppia. Ci saranno cioè una madre e o un padre conosciuti e socialmente riconosciuti, quelli con cui il bambino crescerà, e un padre e o una madre nascosti, quelli che hanno realmente contribuito con il loro seme a generare il bambino. Evidentemente la Consulta è certa che questa situazione sia coerente con la nostra carta costituzionale. Il titolo poi di Avvenire a pagina 3: così si piccona per sentenza la natura di mamma e papà. A proposito di temi etici, un'altra sentenza che certamente fa discutere è questa, l'abbiamo sentito nel giornale radio. C'è un giudice a Grosseto che ha deciso di iscrivere e registrare in Italia il matrimonio tra due uomini, quindi un matrimonio omosessuale. La storia è raccontata da tutti i giornali, per esempio il Corriere titola così: il giudice ordina al comune di registrare le nozze gay, questo è il titolo del Corriere, oppure l'ultima follia dei giudici, le nozze gay sono legali, così titola il giornale, mentre La Stampa: Grosseto, il giudice ordina registrate le nozze gay. È il primo caso in Italia, è una coppia di due uomini che si è sposata a New York, dove il matrimonio omosessuale è consentito, e sono arrivati in Italia e hanno detto: vogliamo essere riconosciuti come una coppia sposata. e il giudice di Grosseto non ha avuto dubbi, ribaltando peraltro il parere del pubblico ministero. La trascrizione dell'atto di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è contraria all'ordine pubblico, dunque è possibile. Il nome del giudice è Paolo Cesare Ottati, presidente del tribunale di Grosseto. Nella sentenza in cui ordina all'ufficiale di stato civile di Grosseto di trascrivere nei registri il matrimonio tra Stefano e Giuseppe, ha richiamato i problemi di ordine pubblico, ma ha messo in fila una serie di considerazioni come mai fatto prima. Per esempio, ha scritto: non esiste e non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio. Non è previsto nel nostro ordinamento alcun ulteriore diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero, e la trascrizione non ha natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé. Per tutti questi motivi ha ordinato di scrivere all'anagrafe il fatto che Stefano e Giuseppe, i due protagonisti, che rilasciano anche qualche dichiarazione al Corriere della Sera dicendo è stato faticoso ma ora festeggeremo, di considerarli sposati, e quindi di fatto c'è il primo caso di matrimoni omosessuali in Italia. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Tra qualche minuto riprendiamo dalle novità economiche, perché c'è il DEF, le polemiche sul DEF. Attenzione, perché su Repubblica uno studio della Will dice gli 80 euro in busta paga, il 40% se ne andrà per l'aumento della TASI e dell'addizionale IRPEF. E poi è il gran giorno di Berlusconi con le novità. L'avete sentito, Berlusconi, che con un colpo che sembra quasi una genialata o un tentativo disperato, ha detto: affidatemi i servizi sociali, ma non a una struttura esistente, la costruisco io la struttura, ne indico una, ho una cascina, faccio lì un centro per anziani, e quindi affidatemi i servizi sociali a una struttura che ancora non c'è. Sembra un po' un colpo della disperazione. Alessandro Milan, lo Jedi dell'informazione, che lo sforzo sia con te. Insomma, siamo veramente all'epopea. Grazie, caro ascoltatore. Ovviamente un abbraccio. Adesso prendi una tisana. No, scherzo. Davvero un grande abbraccio. Allora, il DEF e l'economia, e il giorno dopo il DEF. Intanto, ieri, con un tweet, Matteo Renzi, rispondendo, sapete che su Twitter risponde un po' a tutti, no? Provate a scrivere, Matteo Renzi, magari siete fortunati, ha detto: vedrà caro cittadino sull'evasione fiscale. Oggi il Corriere della Sera scrive: fisco anche le bollette per la caccia agli evasori. Tra l'altro Lorenzo Salvi a pagina 6 scrive: tutto comincia proprio su Twitter, quando un follower di Matteo Renzi gli scrive: peccato non ci sia traccia della lotta all'evasione, e lui risponde: su questo tema continuiamo, vedrai sull'evasione. Che cosa c'è allo studio? Secondo il Corriere, i comuni potranno fare un buon lavoro incrociando le utenze di gas, acqua, rifiuti con le dichiarazioni dei redditi. Renzi lo ha fatto a sindaco di Firenze, e tra l'altro bisogna incrociare il fatto che a capo della Polizia Municipale di Firenze c'era Antonella Manzione. Ricordate, ne ve ne ho parlato due giorni fa. Antonella Manzione, come anticipato il secolo XIX, sarà a Palazzo Chigi presto nominata come capo dell'ufficio legislativo. Allora potrà iniziare da qui la lotta all'evasione fiscale, incrociando le banche dati coi conti correnti e le utenze, le bollette. Poi c'è anche la proposta di uno dei consiglieri economici di Matteo Renzi, Joram Gutgeld, l'onorevole del PD, che dice: riduzione dell'uso del contante, questa potrebbe essere un'altra soluzione all'orizzonte. E sta di fatto che il giorno dopo la presentazione del DEF si fanno anche un po' i conti per questi 80 euro che arriveranno, no? Questo bonus IRPEF fino a 24.000 euro, così titola Marco Mobili a pagina 3 del Sole 24 Ore. Tutti i calcoli: per gli incapienti 380 euro in 8 mesi anticipati dal datore, poi recuperati in compensazione La vera novità però su questo bonus 80 euro arriva, e non è una novità positiva, da uno studio della WIL, un rapporto che viene oggi spiegato da Repubblica a pagina 6. Il titolo già è un po' inquietante: il 40% del bonus IRPEF mangiato dalla TASI e dalle addizionali locali. Racconta Roberto Petrini su Repubblica che il bonus IRPEF di 80 euro per chi guadagna meno di 25.000 euro lordi, che arriverà a maggio, promesso, garantito dal governo, per il quale con il DEF sono state anticipate e annunciate le coperture, in parte è già stato ipotecato dai contribuenti che dovranno far fronte quest'anno a pesanti aumenti della nuova TASI e delle addizionali IRPEF comunali e regionali. Si arriva, secondo questo rapporto della WIL, un focus della WIL, servizi politiche territoriali, al 40% di questo bonus che se ne va, quindi 32 euro degli 80 andrebbero via per pagare, quindi con una mano si aumenta 80 euro, dall'altra, cari cittadini, c'è il rischio, secondo la WIL, di perdere 32. Che dobbiamo commentare? D'altronde si sa, la TASI rischia di essere più costosa della vecchia IMU. C'era questo sospetto che aleggiava da qualche tempo nell'aria. A proposito di questo, comunque, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio viene intervistato oggi da Avvenire, un'intera pagina di intervista di Arturo Celletti e Eugenio Fatigante. Una revisione selettiva della spesa pagherà solo chi è inefficiente, racconta tutte le novità Del Rio, che premette: non ci aspettiamo applausi, d'altronde questo è un paese viziatissimo dalla politica. Parla degli incapienti, la misura assieme agli sgravi IRPEF che cesseranno ai 25.000 euro, parla dei tagli alla difesa, dal quale ci attendiamo 2 miliardi in 3 anni, riguarda gli F-35, famigerati F-35, rivedere il piano non è la fine del mondo, dice Del Rio, che personalmente da sempre ha questa posizione di rivedere il piano degli F-35. Su Renzi, dice Del Rio, pare arrogante, invece ha un'attenzione maniacale alle persone. Da fuori pare effettivamente un arrogante, invece Matteo è molto attento alle persone. Lo chiamo Mosè. Oh, lo conferma, Del Rio. Chiamo Renzi Mosè e lui è realmente come Mosè quando dice a Dio: non mi separare dal mio popolo. Matteo sta con il suo popolo, ha una capacità di ascolto che non gli viene riconosciuta, ha fatto sempre così e continuerà a farlo. Del Rio dice: Renzi è davvero come Mosè. Questa la twitterò a caratteri cubitali, perché non è male, eh? Che dite? Renzi è davvero come Mosè quando dice a Dio: non mi separare dal mio popolo. Matteo sta con il suo popolo. Sapevatelo, come si commenta su Twitter. A proposito di DEF e di banche, le banche sono arrabbiate. Le banche minacciano, secondo la stampa, con l'ABI, un vero e proprio ricorso alla Corte Costituzionale, perché l'aumento della tassa che c'è stata sulle plusvalenze per la ricapitalizzazione di Banca Italia è considerata di fatto è una tassa retroattiva. Per carità, come ci spiegava ieri l'ex sottosegretario all'economia Polillo, non è la prima volta che in violazione allo istituto dei contribuenti si applica una tassa retroattiva. Però le banche non ci stanno, stangata sulle banche, gli istituti verso il ricorso. Pagina 7 della stampa, Francesco Spini racconta: nonostante il prelievo doppio, il tesoretto vale 5,6 miliardi, allora l'ABI punta a rivolgersi alla Corte Costituzionale e anche alla Corte Europea. Tra l'altro anche il Corriere, con Stefania Tamburello a pagina 5, dice: le banche parlano di prelievo ingiusto, ci penalizza in Europa, a chi si applicherà questo aumento delle tasse? Beh, si applicherà a tutti gli istituti di credito, vale al massimo dell'aliquota prevista 1 miliardo e 50 milioni, ricade su 50 banche nel panorama di 700 istituti di credito partecipanti al capitale della Banca d'Italia, quindi 50 banche in Italia. Attenzione, non sono finite le notizie negative. Pare che, scrive il Messaggero, per i funzionari pubblici spunti un nuovo prelievo. Attenzione funzionari pubblici, perché spunta il prelievo oltre 90.000 euro. Racconta tutto Francesco Bisozzi a pagina 5 del Messaggero. Per i funzionari della pubblica amministrazione, cattive notizie che sembra non finire mai. Allo studio infatti c'è l'operazione nella quale si conta di ricavare 400 milioni di euro e sono due per la verità le ipotesi all'esame di Palazzo Chigi. La prima, ricalcare lo schema dei prelievi sulle pensioni d'oro e dunque aliquota e di prelievo del 6% per i funzionari pubblici che hanno un importo di stipendio superiore ai 90.000 euro lordi. E un prelievo del 18% per i funzionari pubblici che guadagnano più di 180.000 euro lordi. Questa è la prima proposta. La seconda invece si baserebbe sui tagli progressivi a partire dagli stipendi sopra quota 70.000 euro lordi l'anno, tagli che in quest'ultimo caso porterebbero nella cassa del paese 1,5 miliardi di euro. E funzionari pubblici, pare che settimana prossima questo sia allo studio. A proposito della campagna taglia qui, cos'è che ha lanciato Renzi e tu cosa taglieresti, il Fatto Quotidiano mette in prima pagina: ecco la nostra proposta, il Quirinale con Giorgio Napolitano ha 793 uomini che garantiscono la sicurezza, 793 unità tra poliziotti, carabinieri, corazzieri, il cui stipendio grava in misura largamente prevalente sulle amministrazioni di appartenenza. Sono cifre verificabili, sono molto meno di quelle che ha Obama, l'uomo più blindato al mondo, 500 persone per la sicurezza di Obama, pensate, 500 per Obama, 793 per Giorgio Napolitano. Ora vogliamo dire che Obama, come dire, un bersaglio un pochino più sensibile del nostro Presidente della Repubblica. Il Fatto Quotidiano dice tagliate da qui. Come l'altra proposta che torna su Repubblica è l'addio al PRA. Tra PRA e motorizzazione una sola ne resterà, ma questi sono sempre annunci che vengono fatti e che poi non vengono mantenuti. A proposito di promesse non mantenute, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci Mauro, buongiorno. No, buongiorno, mi è andata meglio che ieri con l'anziano, tutto sì, sommato. Va bene. Potevo dire a proposito di corazzieri di posti di lavoro da tagliare. Ecco, Mauro Meazza, buongiorno. Ecco, questo sai che mi dispiacerebbe, perché come ti ho già detto, il direttore del personale ci ascolta. Ah, ecco, ci ascolta. E io oggi metto anche dei ceci sotto il ginocchio. Ci ascolta attentamente, quindi stiamo un po' composti. Stai seduto. Ti ho detto che sono in ginocchio sui ceci, più composto. Allora stai composto sui ceci. Ottimo. E lasciami dire che c'è una cosa importante che riportiamo oggi su Sole 24 Ore: l'accesso ai fondi comunitari anche per i professionisti. Ora, questa qui è una piccola rivoluzione culturale, perché solo qualche anno fa gli ordini professionali sembravano, come dire, destinatari degli strali della comunità europea e non dei fondi. Invece adesso, come dire, l'approccio è cambiato e come riferisce Maria Carla De Cesari su Norme e Tributi, l'accesso ai fondi comunitari sarà possibile anche per i liberi professionisti, ci sono dei programmi specifici. Ti risparmio i dettagli. Poi vuoi comprarti la seconda casa al mare? Sì, la terza. Con gli 82 euro, 80 più i 2 che avevi. 80 più 2, vedo che... Io ti voglio far sapere che, scriviamo oggi sulle pagine di Casa 24, le quotazioni sono in calo, tranne che per i posti proprio di grande lusso, che so, Caprio, Portofino, questi certo. Posti. Infatti qui, stavo pensando giusto a Portofino, ho detto che viene un trilocale a Portofino. Sei sempre così ambizioso, sei smisuratamente ambizioso come altri che adesso non mi vengono in mente. Hai preso i bond greci? Non vuoi comprare la casa perché hai preso i bond greci? Non ancora. Allora, però potevi leggere, ieri ti ho avvisato, oggi ti riferiamo sul Sole 24 Ore dell'andamento della vicenda. Possiamo mostrare una vignetta in sì, radio? Sì, sono quelle cose, sono quei momenti di picchi di ascolto, forza! Eccola qua. Ecco, come vedi è la vignetta di Domenico sì? Rosa, pagina Ottima. 22 di oggi, sì? Sai che ogni giorno c'è. E secondo me è molto carina, perché mette insieme la decisione sulla fecondazione eterologa e il DEF. E quindi, insomma, fa vedere come le banche siano state chiamate a fare da donatrici eterologhe al DEF. Ah. E adesso così spiegata la vignetta è chiaro che non è divertente. Un po' come spiegare una barzelletta. Sì, anche peggio secondo anche me. Peggio. Però possiamo fare anche di questo in questi pochi minuti, esatto, in cui ci intratteniamo. No, se tu puoi mostrarla anche nella seconda parte. Sì, sì, sì, adesso che... lo faccio subito. Adesso mi rialzo dai ceci, ecco. Rialzati dai ceci, mostra pure la vignetta anche ai nostri radioascoltatori. Tra pochissimo, ecco, ce l'ho qua. Allora, il tuo momento, perché poi dobbiamo parlare di Berlusconi, caro Mauro. Ah, no, no, per carità, allora mi ritiro in buon ordine. Ricordati la vignetta, per favore. Sì, sì, sì. Grazie, traffico, traffico, buon traffico a tutti. Perché Alessandro Milan è Alessandro Milan. Ragazzi, ma ma volete andare, non so, al Festival di Sanremo? Va bene, grazie caro ascoltatore. Eccoci qua, allora, il momento di Silvio Berlusconi. È il giorno di Silvio Berlusconi, oggi alle 17, ma come vi ho detto da qualche giorno, la sentenza poi arriverà nel giro di 5 giorni, se carcere con arresti domiciliari o se affidamento ai servizi sociali. Oggi la sentenza, cioè oggi l'udienza, ma quello che c'è di geniale e di nuovo sui giornali è questo. Beh, il Corriere della Sera intanto racconta con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella che gli avvocati di Berlusconi hanno depositato una memoria difensiva nella quale Berlusconi svela: vi critico ai giudici, vi critico perché c'è il voto. Questo è il titolo. Beh, è incredibile, cioè parrebbe svelato il motivo per cui Berlusconi da anni attacca i magistrati. L'autocritica di stampo maoista non è richiesta, scrive il Corriere, nemmeno un religioso mi pento, mi dolgo, è condizione necessaria il condannato per accedere ai servizi sociali, ma l'ex presidente del Consiglio in una memoria difensiva per dare giustificazione ai continui attacchi della magistratura dice: vi rassicuro, è tutta una scena. Gli attacchi alla magistratura avrebbero solo motivazioni politiche dettate esclusivamente da finalità elettorali e giammai mirerebbero a colpire le persone dei giudici. Insomma, Berlusconi che fa quest'atto di contrizione, secondo il Corriere, in questa memoria difensiva per giustificare il fatto che per anni, insomma, qualche battuta sui giudici l'ha fatta e sui magistrati o no. A proposito di dove andare agli affidamenti ai servizi sociali, qui c'è l'altra genialata davvero, secondo tutti i giornali, e cioè avrebbe indicato Berlusconi di voler fare l'affidamento ai servizi sociali in una cascina dell'Interland milanese dove un'associazione benefica sta ancora finendo di costruire un centro per aiutare persone con disabilità. Avete sentito bene, cioè Berlusconi propone: vorrei fare l'affidamento ai servizi sociali in una struttura, questa struttura però ancora non c'è, cioè non in una struttura indicata dal tribunale, ma la costruisco io. L'ultima mossa di Berlusconi, servizi sociali in una mia cascina, titolo Avvenire, oppure il secolo XIX, Berlusconi e il servizio sociale fai da te. La proposta ai giudici: accudirò gli anziani in una cascina che trasformerò personalmente in una casa di cura. Vabbè, sembra davvero una butada, una genialata per cercare di mandare un po' in là la decisione. Sta di fatto che il Fatto Quotidiano con Davide Vecchi racconta a pagina 4 che sono solo due le strutture in provincia di Monza e Brianza che sono convenzionate con l'ufficio esecuzione pene esterne del Tribunale di Milano. Sono due, sono entrambe allentate sul Seveso in provincia appunto di Monza e Brianza, sono la cooperativa Oasi e la casa di riposo Cenacolo. Il Fatto è andato in queste due strutture, ovviamente i responsabili dicono non abbiamo assolutamente avuto nessun tipo di contatto, ma potrebbe finire qui, chi lo sa, oppure potrebbe finire in una struttura costruita da lui stesso, staremo a vedere. Certo, tutti raccontano dello scoramento di Silvio Berlusconi in quella che è la svolta decisiva, una delle svolte decisive della sua carriera. Allora, per quel che riguarda la cronaca, voglio andare al racconto di quella che è stata definita in passato la clinica degli orrori, anche insomma in maniera esagerata, perché la responsabilità poi penale è sempre personale. Ieri c'è stata la condanna ed è la prima volta che un chirurgo viene condannato all'ergastolo. Il chirurgo è Pierpaolo Brega Massone, 50 anni, è stato condannato all'ergastolo, appunto, e ieri, raccontano i giornali, è rimasto impietrito in tribunale per 10 minuti dopo aver ascoltato la parola ergastolo, per avere, avere fatto delle operazioni a pazienti che non erano malati, asportazioni di organi, insomma accuse gravissime. Ergastolo e arresto in aula, tra l'altro, è stato tradotto direttamente in carcere perché secondo i magistrati ha pure del denaro e delle possibilità di fuga, e dunque c'è il rischio che fugga. Ergastolo, arresto in aula per il chirurgo dei tagli inutili, Brega, massone condannato per omicidio volontario. Ripeto, tutti i giornali raccontano, insieme alle testimonianze di alcuni o parenti delle vittime o vittime stesse, come il racconto di Giovanni Rizzitano a pagina 21 del Corriere, che dice: mi ha tolto un polmone senza motivo e non si è pentito, un polmone, e io stavo benissimo, come è stato poi accertato. E i racconti, accanto ai racconti appunto di tutti i pazienti, tutti i giornali raccontano che è la prima volta che la giustizia italiana condanna all'ergastolo un chirurgo. E che dire, siamo quasi alla conclusione. Sì, eccoci qua, siamo alla conclusione. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince il Fatto Quotidiano, con Wanda Marra, pagina 6, il titolo dice tutto: il premier scalzo che si perde nei corridoi di Palazzo Chigi. Mezza pagina dedicata a Matteo Renzi, che ha scelto di vivere a Palazzo Chigi, nell'appartamento del presidente, per una questione di praticità, disperato perché dice: non ne posso più di stare qui. Ha preso già 3 chili perché, come racconta il Fatto Quotidiano, ha una dieta rigorosa, ma ogni tanto, come ieri, confida: ho mangiato 2 bomboloni. Vi rendete conto? Il premier che mangia 2 bomboloni, ma ogni tanto riesce a scappare, andare a giocare a calcio. Va a Firenze, dove gioca con il sottosegretario Luca Lotti e l'ex portavoce amico Marco Agnoletti, che tra l'altro saluto, è un gobbo maledetto juventino, ma lo saluto comunque, caro Marco, sempre rigorosamente nella squadra avversaria per poterli dargli delle sulle caviglie a Matteo Renzi. Ma chi se ne frega? Ma vi rendete conto? Mezza pagina così. E poi soprattutto Matteo Renzi, che quando non ha riunioni gira per Palazzo Chigi scalzo e senza scarpe. Ah, fondamentale. Niente, la carta costa, io ne ho 40, ma non se ne rendono conto. Andiamo al giornale radio. Mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, nei primi 3 mesi del 2014, un po' in silenzio, un po' sotto traccia, visto che i grandi giornali non ne hanno parlato, quindi l'opinione pubblica non ha acceso i fari su questa situazione, sono arrivati in Italia 13.071 migranti, è il dato del Viminale. Il problema soprattutto è la Libia, che è un paese in questo momento pare fuori controllo per il controllo delle coste, da lì soprattutto partono i barconi. E attenzione, soprattutto il Viminale dice che il 90% di queste persone che arrivano sono richiedenti asilo, hanno dunque il diritto, per motivi umanitari, scappano da guerre per esempio, di poter stare qui. Da martedì, pensate, in una settimana sono arrivate 440 persone solo nell'ultima settimana. E su questo la Lega fa una dura battaglia, per esempio a dire: ecco, vedete, a cancellare il reato di clandestinità. In realtà ieri il ministro Alfano, proprio ai microfoni di Radio 24, ai microfoni di Simone Spezia, ha detto: ma come, proprio durante il momento in cui c'era il reato di clandestinità, nel 2011 c'è stato un record di sbarco di clandestini con 62.692 migranti, quindi è una posizione pretestuosa. Voglio subito chiederlo a Matteo Salvini, segretario della Lega. Buongiorno. Buongiorno Salvini, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, è pretestuoso dire: è il reato di clandestinità cancellato che crea questi sbarchi? Beh, cancellare il reato di immigrazione clandestina è un segnale demenziale. Tutta Europa difende, restringe, protegge i suoi cittadini, noi siamo gli unici che andiamo contro mano. È chiaro che nell'era di internet e nell'era della radio, quando i mafiosi, il racket degli scafisti deve decidere dove portare queste migliaia di disperati, secondo voi dove va? In Spagna, in Francia, in Grecia, a Malta? No, dove quei pirla degli italiani mettono negli hotel 3 stelle chiunque sbarchi a Lampedusa e dintorni. Cosa bisognerebbe fare? Respingimenti? Alcuni leghisti ieri assolutamente erano... sì. Ma respingimenti sì. Come? Anche nutrire, ma come fanno tutti gli altri? No, non è che dobbiamo inventare qualcosa, guardiamo quello che fanno gli spagnoli, i francesi, gli australiani. Tu curi, aiuti, soccorri e giri la prua, la poppa e rispedisci indietro, altrimenti, cioè, il ministro Alfano dice ci sono 600.000 nordafricani pronti a partire, li ospita a casa sua? Dove pensiamo che ci sia posto per 600.000 persone senza un futuro, senza un lavoro, senza una casa? Usiamoli là quei soldi. Maroni investiva quei soldi in Libia e quindi facciamo le strade, gli ospedali, le scuole là. Altrimenti li distribuiamo a centinaia negli alberghi italiani a 45 euro al giorno e pagano gli italiani. Questo dal punto di vista economico comunque, cioè, pagheremmo anche costruendo scuole, strade. Ma guardi, preferisco costruire una scuola in Libia che mi rimane e fa studiare 100 bambini in Libia piuttosto che spendere i soldi per mandarli in vacanza a Pavia, a Sondrio, a Roma o a Bologna, poi scappano dopo due giorni e diventano clandestini e alimentano la criminalità. Mi sembra veramente il ministro Alfano è la persona sbagliata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Senta, respingimenti vuol dire neanche farli arrivare, lei dice li assistiamo, li curiamo, ma proprio sulle navi e poi ritorniamo. Così fa il resto del mondo civile. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che negli ultimi 6 anni di 168.000 richiedenti lo status di rifugiato, meno del 10% è stato riconosciuto come rifugiato politico. Su 10 che sbarcano, uno sarà rifugiato. Domando a chi ci ascolta, gli altri 9? Non è che sono in giro per Milano, certo, per Torino, per Roma. Quel rifugiato lì, a parte che questi sono dati, vabbè, il Viminale adesso dice che il 90% di quelli che fuggono, adesso c'è la situazione in Siria, ci sono situazioni un po' più delicate, quindi magari questa percentuale è aumentata, ma come lo riconosciamo quella persona lì o quelle persone lì? Ma lì ci sono le prefetture, fino a che esistono, perché io le cancellerei tramite referendum se gli italiani saranno d'accordo, fino a che esistono sono le prefetture che riconoscono se uno scappa dalla guerra o se uno è un immigrato clandestino. O l'Italia decide di accogliere 600.000 persone, però mi spieghi Renzi, mi spieghi Alfano con che soldi, dove, con che lavoro, con che casa, con quali prospettive, oppure mettiamo dei limiti come tutti gli altri paesi del mondo di destra e di sinistra stanno facendo, fuorché l'Italia, perché evidentemente noi siamo così ricchi che possiamo permetterci di spendere 300.000 euro al giorno per andare a prenderli in mezzo al mare. Vede, per identificarli bisogna farli, come dire, sbarcare, anche solo se la prefettura o chiunque voglia fare questo tipo di lavoro, bisogna identificarli. La marina australiana lo fa in mezzo al mare. In mezzo al mare. I medici, coi poliziotti. Quindi se uno non ha i documenti, per esempio, via, anche se fugge... Assolutamente, assolutamente. Anche se... ripeto, o qualcuno mi spiega dove mettiamo 600.000 persone e come li paghiamo e che futuro gli diamo, oppure facciamo rispettare le regole che esistono. Allora, io Salvini, le faccio buongiorno, le faccio ascoltare Valentina Brinis, che è ricercatrice dell'ONLUS a Buon Diritto, dirige tra l'altro il sito www.italiarazzismo.it. Buongiorno, dottoressa Brinis. Buongiorno a voi. Lei ha scritto insieme a Luigi Manconi questo libro dal titolo che dice già tutto, Accogliamoli tutti, no? Il titolo ovviamente è uno slogan molto... perché questo slogan, Accogliamoli tutti? Tutti, cosa vuol dire? Tra l'altro la prefazione è dell'ex ministro Cecil Kyenge, voglio ricordare. Ecco, in realtà questo non è uno slogan, ma diciamo è una proposta politica e nel nostro libro noi rielaboriamo una serie di dati economici e demografici che descrivono il fenomeno dell'immigrazione in Italia, quindi in un certo senso raccontiamo che cos'è l'immigrazione in Italia e sulla base di questi dati diciamo effettivamente si potrebbe accoglierli tutti, perché ci sono una serie di risorse economiche e diciamo appunto qual è l'utilità degli immigrati in Italia. E quindi in che senso gli immigrati sono utili agli italiani e poi ovviamente anche diciamo come gli italiani poi sono utili agli immigrati, ovviamente, quindi diciamo riassunto in due parole, questo è il senso di quello accogliamoli tutti. Ovviamente ci rendiamo conto che però c'è un deficit che non ci permette almeno adesso di accogliere tutti, sì, o comunque che rende difficile questo accogliamoli tutti e che è un deficit di carattere culturale, significa che tutte le normative, ma io davvero dico tutte, queste, quindi non mi limito a criticare come molti fanno la Bozzi-Fini o il reato, l'introduzione del reato di immigrazione irregolare, sì. Ma io dico davvero, dalla legge Martelli ad oggi non c'è stata nessuna politica che sia riuscita a governare i flussi in ingresso in Italia. Cioè, voi tra l'altro in questo libro voi scrivete sicuramente una cosa che non funziona sono le politiche repressive. Perché non funzionerebbero le politiche diciamo repressive? Che, però gli effetti negativi, cioè continuare a ostacolare i flussi è totalmente negativo, perché nonostante quello che si possa pensare, tutte queste politiche non sono dei deterrenti all'ingresso in Italia, e vediamo che comunque la gente non solo continua a sbarcare, ma continua ad arrivare in maniera regolare in Italia, magari prendendo dei voli di linea con dei regolari visti d'ingresso, e poi fa scadere il visto d'ingresso perché non ha nessuna possibilità di tramutare quel visto in permesso di soggiorno e quindi di entrare e intraprendere un percorso di regolarità. Quindi noi diciamo, tutte queste politiche che negli anni hanno tentato di ostacolare i flussi in ingresso effettivamente sono fallite, per cui la nostra proposta, il sottotitolo del libro ricordo che è una ragionevole proposta, sì, per salvare l'Italia, gli italiani e gli immigrati, la nostra, che noi intendiamo come ragionevole proposta, è quella proprio di riformare le politiche in tema di immigrazione in Italia in maniera tale che non si ragioni solo in termini emergenziali, perché adesso l'onorevole Salvini giustamente dice: ma dove riattiamo 600.000 persone? Sì. Cioè, come facciamo ad affrontare questo? Perché in effetti ad oggi, nonostante l'Italia sia da anni terra di sbarchi, non c'è stata una lungimiranza, o meglio effettivamente si è sempre gestita l'emergenza, ma è chiaro, esatto, ragione di emergenza, soprattutto in questo, soprattutto in questo momento in cui ripartono gli sbarchi e non si riesce a gestire una situazione in maniera lungimirante. Per esempio, Salvini, le chiedo questo, anche la politica repressiva, quando è stato ministro Maroni, cioè cosa risponde quando Alfano dice anche quando c'era il reato di immigrazione clandestina, questo non ha fermato gli sbarchi, cioè è una propensione naturale a cercare di fuggire da dove si sta peggio per andare dove si sta meglio. Innanzitutto mi chiedo a chi ci sta ascoltando, accogliamoli tutti, dove, con che soldi, con 5 milioni di disoccupati, con 4 ragazzi su 10 a spasso, con 20.000 persone a Milano che aspettano una casa popolare, mi sembra veramente un dibattito surreale. È bello, sarebbe bello nel mondo delle fiabe, accogliamoli tutti, ma sì, 1,5 miliardi di persone, va bene, non veramente... Non capisco dove, come e quando. Detto questo, le leggi se ci sono si applicano. Il 2011 era l'anno della guerra, della primavera araba, per carità di Dio. Il 2009 furono 3.000. Quest'anno sono stati 3.000 in una settimana, per intendersi. I rimpatri con Maroni erano 15.000 all'anno, quest'anno sono stati 2.000. Quindi la stessa legge può essere applicata in maniera non severa, intelligente, rigorosa, come fa il resto del mondo, o può essere disapplicata come negli ultimi anni. Non c'è la bacchetta magica. Io dico, se devo spendere 1 miliardo, preferisco spenderlo in Africa, per risolvere il problema a monte. Accogliamoli tutti, ma dove? Ma veramente, anzi, io posso già annunciare che settimana prossima depositeremo la richiesta di referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina che c'è in Francia, che c'è in Germania, che c'è in Gran Bretagna, che però non ha portato, che impone un limite. Però Salvini, il procuratore di Agrigento, procuratore capo, disse anche qui ai nostri microfoni a dire: ma sì, io ho aperto migliaia di fascicoli da quando c'è il reato di immigrazione clandestina, ma poi no, sono fascicoli non portano a nulla, nel senso che è un strumento che agevola l'espulsione, ma ripeto, se funziona in tutto il mondo, con tutto rispetto al procuratore di Agrigento, mandatelo a scuola in Francia, a Londra, e poi studia su come funziona là e poi lo applica qua. Non si capisce perché è una legge che funziona in tutto il mondo, in Italia no. Accogliamoli tutti, ma per carità di Dio, io ho un bilocale, da me ce ne stanno 5 o 6, se ciascuno nel suo bilocale li accoglie, magari 600.000 li sistemiamo. Quindi per concludere, Salvini, poi la salutiamo, so che è in treno e continueremo dopo la pubblicità con Valentina Brinis. Cosa praticamente farebbe di fronte a questi sbarchi che stanno arrivando nei prossimi giorni anche? Lei sarebbe per i respingimenti? Cioè... Si fanno accordi con dei paesi del Nord Africa, come avevano già fatto, per soccorrere, per aiutare, per sviluppare le terre. Ripeto, mi sembra folle nei confronti degli italiani, degli immigrati che sono qua regolarmente presenti, degli stessi clandestini che sono carne da macello per il racket. In tutto il mondo l'esercito serve per difendere i confini, in Italia l'esercito serve per andarli a prendere. quindi abbiamo le navi, questa operazione Mare Nostrum che costa 10 milioni al mese. Par normale che gli italiani spendano 10 milioni al mese per farsi invadere? Mi sembra veramente al di là del bene e del male. Allora, io intanto la ringrazio, Matteo Salvini, segretario della Lega. Dopo la pubblicità con Valentina Brinis continueremo, coautrice insieme a Luigi Manconi, che è un senatore del Partito Democratico, di questo libro, dal titolo appunto l'abbiamo spiegato, ci ha spiegato il senso del libro, di questa proposta, accogliamoli tutti, il tema dell'immigrazione e la situazione, non vorrei dire l'emergenza migrante, perché poi per sei mesi all'anno non se ne parla, e poi emergenza migranti, no? Quando poi arrivano i barconi, questi sono i titoli dei giornali. Vorremmo anche sapere cosa ne pensate voi. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ricordo poi alle 8:45 avremo il responsabile economico del PD Filippo Taddei per parlare anche di i giorni dopo il DEF e questi 80 euro in busta paga che arriveranno. 24 allora, le 8:38 minuti, in tema di immigrazione vorrei riprendere il fila del discorso con Valentina Brinis, che come detto ha scritto insieme a Luigi Manconi il libro Accogliamoli Tutti, edito da Saggiatore. Brinis, intanto ha sentito Salvini parlare della questione aiutiamoli, spesso si sente dire, no, dei leghisti, aiutiamoli ma a casa loro, è un approccio corretto ed è fattibile? Beh, allora intanto volevo dire una cosa in premessa che non mi sembra sia emersa fino ad ora, che comunque quando si parla di persone che sbarcano, che arrivano in questa modalità, si parla di persone che fuggono da terre in stato di guerra o in stato di guerra civile e arrivano in Italia in questo caso, ma in generale in Europa, per rivendicare un diritto fondamentale che è il diritto all'asilo. In alcuni casi, quindi, in quei casi è la legge garantisce. Esatto, sarà poi ovviamente sarebbe utile in un certo senso, e in molti casi viene fatto, fare ovviamente innanzitutto e prima di tutto insomma un ragionamento di tipo collettivo, ovvero diamo una forma di protezione temporanea a tutti e poi ovviamente andiamo ad analizzare storia per storia, perché il procedimento di diritto d'asilo ovviamente prevede questo, che ognuno abbia la possibilità sulla base della propria storia di ottenere una forma di protezione. Però ha diversa. Sentito prima Salvini dire, allora, che effettivamente i dati c'erano, solo il 10% se non sbaglio di coloro. Lui si riferisce all'asilo politico, sì. all'asilo, quello è uno status ben determinato, ma le forme di protezione in Italia sono di altri tipi, sono di tre tipi: uno è l'asilo, uno è la protezione umanitaria e uno è la protezione sussidiaria. I dati che dice lui sono legati a una solo forma l'asilo, di protezione, ma bisogna stare attenti quando si fanno questi discorsi, perché altrimenti sono parziali e ovviamente risultano sbagliati. Mi dispiace dirlo, ma è così. Anch'io sono d'accordo sul aiutiamoli a casa loro, interveniamo. Questo significa investire nella cooperazione internazionale. La Lega si è mai impegnata a investire nella cooperazione internazionale? Fino a qualche anno fa, fino a due anni fa, l'Italia era il paese europeo che meno investiva nella cooperazione internazionale. E voglio ricordare all'onorevole Salvini che comunque facevano parte anche di quel governo. Allora perché non si sono impegnati anche Ma è chiaro, ma queste infatti sono le critiche dire, che vengono fatte. Aiutiamoli a casa loro. Molto poco è stato fatto. Sentiamo degli ascoltatori. Cristian da Modena, buongiorno Cristian. Sì, buongiorno. Allora, io sarei anche d'accordo ad accoglierli tutti, tra virgolette, a parte che adesso è quasi impensabile accogliere tutti quelli che arrivano per un problema di disoccupazione. Però facciamo un esempio: io prendo 1500 euro al mese, mi alzo la mattina alle 6 e torno alle 8, mia moglie è disoccupata. Un immigrato ci costa mediamente dai 40 ai 50 euro al giorno. Facciamo così, ne prendiamo due. Io gli do il mio lavoro, io e mia moglie prendiamo a testa 50 euro al giorno per fare niente tutto il giorno. A me andrebbe benissimo. Andrebbe benissimo. Allora rimanga con noi Cristian, perché lei introduce un argomento anche che nel libro viene affrontato, cioè la questione che spesso viene detta, è dire ci rubano il posto di lavoro. Valentina Brinis, è così dai dati? È chiaro che non c'è una regola scolpita nel marmo. Ma veramente noi facciamo un'analisi prendendo in considerazione gli ultimi 40 anni, quindi addirittura prima che ci fossero le migrazioni, e vediamo che negli ultimi 40 anni sempre più italiani italiani si sono laureati, e nel momento in cui si laureano è sempre più difficile che vadano a svolgere dei lavori poco qualificati, comunque non qualificati, e questi posti di lavoro che per anni sono rimasti liberi, per anni ci c'erano, sono stati occupati e vengono tuttora svolti da lavoratori stranieri, ed è per questo, e anche grazie all'apporto dei lavoratori stranieri, non esclusivamente all'apporto dei lavoratori stranieri, che parte di alcuni settori italiani insomma hanno retto alla crisi. Sì. Però questi lavori non qualificati, e i dati lo dimostrano, quindi non sono idee strampalate o piantate per aria, i dati lo dimostrano, vi invito a guardarli, sono sorretti dal lavoro straniero. Questi dal lavori straniero. Vengono svolti dai lavoratori stranieri. Lei, Cristian, sente in qualche modo una concorrenza, dice sua moglie non trova lavoro? No, non è questo. No, le chiedo, le faccio una domanda. Cioè, senti. No, assolutamente, mia moglie non è che non trova lavoro perché non si adegua a fare lavori che prima facevano solo gli extracomunitari piuttosto che gli stranieri, piuttosto che italiani non qualificati. Sì. Perché attenzione, ci sono anche italiani che fanno le pulizie, Ma certo, non sono solo gli extracomunitari. Allora, ecco, quindi non è quello il discorso. Il discorso è che parlare di accoglierli tutti adesso, in un momento dove abbiamo il 50% dei giovani disoccupati, sì. E io ho un figlio, un amico che ha un figlio di 21 anni che cerca di fare qualsiasi tipo di lavoro, e a meno che non lo faccia in nero non lo trova. Per me il lavoro in nero non è lavoro. Gli immigrati fanno anche i lavori in nero. È anche un lavoro illegale, oltre che non essere un lavoro, è illegalità. Cui abbiamo immigrati che vanno a raccogliere i pomodori in nero. E questo è un problema. Non è un lavoro, ma chiaramente io devo dire, Cristian, che questo appello, poi accogliamoli tutti, che è il titolo del libro, come spiega poi il libro stesso, non vuole essere un appello buonista, e poi l'accogliamoli tutti sarebbe rivolta all'Europa, noi europei, cioè non noi italiani, non appunto prendiamoceli in casa. Però vorrei sentire Gavino dalla provincia di Sassari, no, è caduto, Vito dalla provincia di Brescia. Allora, Vito, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senti, indipendentemente da accogliamoli tutti in Europa, potrebbe essere anche un discorso serio, ma siccome discorsi di questi ne abbiamo sentite ad enciclopedie, non al libro intero, ad enciclopedie, io penso che in un momento così di crisi in Italia, parlo dell'Italia, in un momento così che sbarcano, e visto che il ministro degli interni Angiolino Alfano prevede che ne entrano 600.000, sì, e mi chiude anche i posti di polizia a Salò e a Iseo, e anche a Brescia la stazione ferroviaria. No, mi togli i militari. Io vorrei sapere, tutte queste che sbarcano e che vengono a Brescia, che ne sono 200.000 presenze oggi, alla data di ieri, quelli... Cioè ha timore per la sicurezza, parliamoci chiaro, ha timore per la sicurezza. Come loro ministri e deputati sono blindati fino anche quando vanno a fare i loro bisogni, e sono blindati. Invece lei dice il cittadino italiano ha timore della sicurezza. No, ma Vito, è chiarissimo, perché devo chiudere questo argomento. Valentina Brinis, sul tema della sicurezza effettivamente è una questione che gli italiani dicono, e lo stesso Salvini ci ha detto, insomma, questo aumenta il rischio che queste persone vadano a finire nelle braccia delle criminalità organizzate. Beh, veramente io quello che tentavo di dire anche forse un minuto fa, l'altro ascoltatore, quando parlava di lavoro irregolare, lavoro nero, il problema è l'irregolarità, il problema è che se non si mettono a punto delle politiche di integrazione, delle politiche di inserimento, delle politiche anche di pianificazione degli ingressi, e quindi anche delle politiche di distribuzione su piccoli territori delle persone che arrivano, è ovvio che si arriverà a un aumento dell'irregolarità, e credetemi è quello il problema, perché nell'irregolarità, nel momento in cui una persona è irregolare, è una persona che di fatto è difficilissima da rintracciare, e l'irregolarità è strettamente purtroppo collegata alla marginalità, e nella marginalità, che tu sia italiano, che tu sia straniero, è lì che effettivamente ci può essere un aumento della delinquenza. Certo. No, ma questamente ed è questo l'assunto da cui bisogna partire per fare dei ragionamenti. No, ma certo, pianificazione per essere assolutamente più pronti ad affrontare quella che è certamente una situazione da gestire. Io ringrazio Valentina Brinis, così come prima Matteo Salvini. Voglio ricordare, se volete, Accogliamoli tutti, edito dal Saggiatore, lo trovate, Valentina Brinis insieme a Luigi Manconi, è l'autore di questo libro. Devo andare alle informazioni sul traffico, poi parliamo della situazione economica. Per questo voglio già salutare Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD. Buongiorno e ben ritrovato Taddei, eccoci qua professore. Buongiorno Milan. Allora, un attimo di pazienza e poi cerchiamo di capire questi 80 euro, il DEF, insomma le tante tematiche che gli italiani hanno sul tavolo dopo la presentazione di questo documento di economia e finanza. Allora, eccoci qui con Filippo Taddei, responsabile economico del PD, insegna anche alla Johns Hopkins University a Bologna. Intanto Taddei, prima di entrare in questi provvedimenti, ma perché avanzare dei dubbi sulle coperture vuol dire essere dei gufi? Ce l'ha coi gufi, no Renzi? Questa campagna anti-gufismo, non si capisce perché. Ma non so, sarà una sorta di anti-animalismo, però il senso in realtà è quello di cercare di capire che non è una questione solamente delle misure che fai, ma anche dell'investimento che vogliamo mettere su quelle misure che vengono poi effettivamente implementate. Ma non è solamente il tipico discorso sulla fiducia, bisogna avere fiducia, stringere i denti, incrociare le dita e guardare al futuro col sorriso, è però il desiderio di non perdere un'opportunità. Abbiamo l'opportunità anche dal punto di vista di mercato internazionale, è abbastanza unica, cioè non si è ripresentata negli ultimi 15 anni, e abbiamo una spinta straordinaria di cui il Partito Democratico si è fatta promotore, quindi va tutto bene, ma non dimentichiamo questi due fatti. E questo certamente. Al presente e al futuro. Allora, la domanda classica è questa: le coperture ci sono, il 18 ci sarà il decreto, e questo è quello, però il dubbio che tutti hanno, dove sono queste coperture? Voi siete certi di averle? Beh sì, penso che sarebbe bel problema se adesso dicessi che noi non siamo certi, anche perché è vero che il DEF non è ufficialmente pubblico, ma il DEF esiste e ne circolano già non so quante copie, penso di averne contate almeno 4 diverse che circolano sui vari giornali. Guardate, l'impegno è poi sempre il medesimo, l'impegno è dare il più grande stimolo alla riduzione delle tasse sul lavoro che questo paese abbia visto negli ultimi, diciamo, 15 anni, sono 10 miliardi di IRPEF in meno, e farlo in maniera permanente. L'unico modo per farlo in maniera permanente è far sì che quella riduzione delle tasse sia bilanciata da una riduzione in linea proporzionale uguale della spesa pubblica corrente. Questo è stato l'impegno e quindi se questo non teniamo fede, insomma, il paese dovrebbe essere parecchio risentito. Questo certo. Però diciamo aspettiamo che questo non avvenga, insomma i dubbi preventivi vanno benissimo, ma le critiche preventive teniamo anche il 18. Però ad esempio oggi le banche hanno ribadito per questo aumento di tassazione, visto che è una tassazione retroattiva in violazione allo statuto del contribuente, è vero che questo avviene per altre tasse, però dicono le banche siamo pronte addirittura a fare ricorso alla Corte Costituzionale. Perché tassare le banche o colpire di più le banche per recuperare risorse? Ma guardi, non c'è nessun intento punitivo in questo, ma semplicemente un desiderio di scegliere, insomma, decidere vuol dire etimologicamente anche recidere. Abbiamo deciso in questo momento di dare priorità a quello che dicevo prima, cioè la riduzione delle tasse sul lavoro. Per poter coprire questo con i tagli della spesa pubblica, bisogna che le riforme, cioè i cambiamenti della struttura della spesa pubblica, avvengano all'interno di, diciamo, una serie di misure, quello che potremmo definire un piano industriale della pubblica amministrazione. Perché quel piano industriale realizzi i propri effetti, cioè produca risparmi, bisogna che alcuni risparmi si materializzano immediatamente, cioè entro l'anno fiscale, altri entrano a regime, si realizzano quando le riforme, effettivamente questi cambiamenti della struttura della pubblica amministrazione vengono implementati. Nel mentre noi abbiamo da coprire questa risorsa, siccome non siamo degli responsabili abbiamo dovuto scegliere, e la scelta è stata questa, è stata quella. Poi in realtà è una scelta che non è folle o incoerente. Le banche italiane ricevono attraverso la rivalutazione delle quote di Banca Italia un capital gain. Sì. Si è deciso che l'ha deciso il governo, l'ha deciso con sostegno del Partito Democratico, che la tassazione su questi capital gain, che crescono del 26% per tutti. No, questo sì, è una decisione, però prima era il 12 credo, e quindi è stato era leggermente di più in realtà, su quella plusvalenza in particolare è il 14, comunque sì, ha perfettamente ragione, è cresciuta in maniera... Cioè è cresciuta in maniera, si dice, le banche dicono, retroattiva, cioè ci avevate detto il 12, adesso il 26, non si fa, ecco. Sì, mi rendo perfettamente conto, ci sono un sacco di cose che non si fanno, per esempio non si parla del sostegno al lavoro senza poi darlo, non si parla del milione di posti di lavoro senza realizzarlo, non si parla della riduzione delle tasse sul lavoro senza poi realizzarlo. Noi in questo momento abbiamo deciso che tra le tante cose che non si fanno, o meglio che si dicono e poi non si fanno, almeno noi ne prendiamo questa una, perché per me è la priorità numero uno e la realizziamo. Senta, oggi Repubblica scrive che secondo un rapporto, un focus della UIL, gli 80 euro che arriveranno a maggio, in realtà il 40% di questi, cioè 32 euro, se ne andranno per gli aumenti della TASI e dell'addizionale locali. Cioè non è una che non dipendono strettamente da provvedimenti di questo governo, ma situazioni no, che si sono venute a creare. Però non rischia di essere un po' una fregatura questi 80 euro, cioè ve ne diamo 80, ve ne togliamo 40. Ma guardi, questo è un modo di ragionare che io trovo sempre difficile da comprendere. Cioè, io dico che ad oggi, per il pasticcio che è stato fatto sull'abolizione dell'IMU della prima casa, i cittadini italiani si troveranno a pagare in realtà sotto altra forma, sotto altre veste, una cifra molto vicina a quella che era l'IMU sulla prima casa. Questa è la politica che c'era prima, o meglio, l'eredità della politica che c'era prima. Questa è l'Italia oggi, quindi è così. Poi arriva il nuovo governo, arriva il Partito Democratico e dice benissimo, tutto questo almeno cominciamo a invertirlo, perché da oggi noi remuneriamo il lavoro. Non è questione che una cosa cancelli l'altra, è questione che se io vi levo i 10 miliardi, ci sono 10 miliardi di tasse in più per che i lavoratori dipendenti italiani devono quindi pagare. Cioè, almeno 80 euro li diamo, e poi se ci sono le addizionali locali non dipende da noi. Quello che voglio dire è che quelle addizionali locali esistono già, come il livello di tassazione generale di questo paese esiste già, l'IVA esiste già, cioè non è che noi arriviamo, però voglio dire, quello non è una responsabilità del governo in corso, e tantomeno dice, senza 80 euro vi tenevate le addizionali locali ed eravate pure senza gli 80 euro. Posso dare un riferimento, giusto per avere un senso di quanto è importante questo taglio. Cioè, l'IRPEF complessiva che viene versata sono i dati 2012, circa 155 miliardi, no? Di questi, se noi guardiamo i redditi sotto i 26 mila euro lordi, se non ricordo male, circa 40 miliardi sono l'IRPEF pagata dai contribuenti italiani che dichiarano fino a 26 lordi, 25 lordi. Ora, io vorrei che con la massima chiarezza noi mostrassimo al Paese che una riduzione di 10 miliardi per quella fascia di reddito che paga 40 non è una riduzione trascurabile, è una riduzione di un quarto. In realtà è una riduzione molto maggiore, perché quei 40 considerano non solo i lavoratori dipendenti, ma anche pensionati, anche i lavoratori autonomi. Quindi se noi ci concentriamo sui lavoratori dipendenti, la riduzione fiscale che stiamo offrendo è veramente, veramente radicale. Quindi io veramente, il Partito Democratico si prende tutte le critiche del caso, il paese che non funziona, e poi vedremo. Però, insomma, manca. Però rendiamoci conto veramente di che svolta, e un po', mi faccio usare un aggettivo forte, insomma, un epocale magari forte, ma che svolta radicale stiamo cercando di imprimere. Certo è faticoso, e certo bisogna fare alcune scelte un po'. Anche scomode. Io intanto la ringrazio, grazie a Filippo Taddei, come detto responsabile economico del Partito Democratico. Staremo a vedere, certo gli italiani sono tutti col fiato sospeso, no? E anche con chi ci crede, la speranza, e con chi non ci crede, insomma, con l'atteggiamento gufesco, come dice lo stesso Matteo Renzi. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti in redazione e Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli anche in redazione. Siamo qua, con l'alpino Peter Bescapè in regia, pronti a raccogliervi domattina alle 6:30, sempre pimpanti, voi debosciati, chi lo sa.